Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui, ogni volta ce lo confermiamo che non ci sono più le mezze stagioni. C'è sempre un buon motivo per dire che non ci sono più le mezze stagioni. Questa volta vorrei dire che per una volta, insomma, invece che fare la valletta, la figura femminile tipicamente valletta, no? Anche a Sanremo per esempio, invece per una volta una donna tutta da sola ha condotto senza bisogno di vallette o valletti, ha fatto veramente degli ascolti da record. Adesso che piaccia o no Sanremo, che possa piacere a Antonella Clerici o no, diciamo che insomma per le donne questa è un bel risultato, una bella conquista. Fra l'altro, parlando di Sanremo, che è comunque notizia di questa settimana, sapete che qui facciamo insieme un bilancio ogni volta dei fatti di tutta la settimana, e quindi vi dico da subito di chiamare il numero verde 800 24 00 24 per raccontare qual è la notizia che questa settimana vi ha colpito in modo particolare, anche perché anche questa puntata, come la scorsa, c'è in palio per i primi due ascoltatori e ascoltatrici che racconteranno la loro notizia della settimana, c'è in palio un CD Dialetti d'Italia, proprio perché ritorna ancora la polemica, no? Si era parlato prima di Sanremo, c'era stato questo dibattito sul fatto di modificare un po' il regolamento e riuscire a introdurre le canzoni in dialetto da un po', no? C'è questo bisogno di ritorno, anche positivo per carità, alle lingue locali. E poi è intervenuto, diciamo, c'è stato soltanto un cantante, Nino D'Angelo, in realtà, dopo questo dibattito a Sanremo, che ha cantato in napoletano, e poi è intervenuto invece in questi giorni, proprio questa settimana, il ministro per le politiche agricole, Luca Zaia, che insomma un po' criticato, ha detto abbiamo perso un'occasione, auspico che a Sanremo una prossima volta non ci sia soltanto un cantante napoletano ma anche vari altri cantanti di varie altre regioni che cantino anche loro in dialetto. E a questo proposito volevo già proprio dare un assaggio di questo doppio CD Dialetti d'Italia. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna. Giusto così per dare un'idea e anche per introdurre a momenti il mio eccellente ospite di questa settimana, che è il mio opinionista estemporaneo, sapete, li definisco così ogni volta, un personaggio che insomma ci dica un po' qual è il suo pensiero sui fatti della settimana e commenti insieme a noi, insieme a me, insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori. Questa settimana c'è, signore e signori, Gian Antonio Stella. Gian Antonio, rullo dei tamburi. Sì, e stavo cercando anche una canzone per te in questo CD di dialetti. Potrebbe essere La biondina in gondoletta? Beh, allora se la vogliamo mettere sul piano, come dire, del patriottismo, non può che essere una canzone in cimbro. Perché sì, io sono molto rispettoso dei dialetti, per cui. Se però la mettiamo sul piano della rivendicazione anche politica, allora sì. Io mi arrocco nel mio altopiano di Asiago. Noi siamo cimbri, non abbiamo niente a che fare con i padani. Non cominciamo adesso con queste. Ovviamente sto scherzando, sto dicendo però che se la mettiamo su quel piano. Insomma, e cosa ci canteresti allora, Gian Antonio? Ma non lo so, perché le lingue, le canzoni cimbri una volta non te sono le ricordo di più, sono scomparse. Larga parte perdute, insomma. Mm. Okay. Ma la cosa del dialetto, secondo me, merita una riflessione. Io credo che se si chiama Festival della Canzone Italiana sia giusto che abbia delle canzoni in larga maggioranza italiane, però uno spazio per le canzoni dialettali lo riserveresti tu? Sì, secondo me sì. Mentre sono perplesso sull'insegnamento del dialetto a scuola, per motivi che mi piacerebbe poter spiegare, lo spiegherò volentieri, invece sulla possibilità di dare spazio alle canzoni dialettali, io credo che sia una cosa assolutamente giusta, credo che su questo Zaia abbia ragione, anche se magari la pensiamo diversamente sui motivi per cui e sul tipo di canzoni, perché per me la grande canzone ci sono delle canzoni a cui tutti noi siamo affezionati, quel mazzolino di fiori va benissimo. Poi le grandi canzoni napoletane. Sì, va bene. Però voglio dire, Fenestra che lucive non è una canzone, non è soltanto una canzone della tradizione, è un capolavoro. Mm. E quindi io sono per qualunque sia la canzone, qualunque sia la lingua, se una canzone è un capolavoro fine. In questo senso ci sono delle canzoni napoletane che sono di una Sì. bellezza assoluta e sarebbe un delitto escluderle da una. Detto questo, per quanto riguarda la scuola invece, io sono assolutamente favorevole a leggere in classe poesie e letteratura dialettale. Totalmente, assolutamente favorevole. Sono perplesso sull'insegnamento della scuola in senso del dialetto in senso stretto, perché alcuni mesi fa, per fare un esempio, lessi sul Gazzettino un articolo scritto appositamente in dialetto da un consigliere regionale veneto della Lega Veneta che è di Sandrigo, e io che sono nato ad Non hai capito Asiago, neanche tu. io che sono nato ad Asolo, però sono asiaghese, insomma, sono asiaghese e sono cresciuto a Vicenza. Sandrigo è, non esagero, 20 km da Vicenza, e il dialetto scritto di Sandrigo, io devo Era dire, oscuro. facevo una fatica orba a leggerlo, per cui figurarsi insegnarlo a scuola. Una cosa come questa presupporrebbe che a Sandrigo posso insegnare soltanto gli insegnanti di Sandrigo, ad Asiago sono gli insegnanti di Asiago, a Trebaseleghe sono gli insegnanti di Trebaseleghe, Diventa un po' che è complicato, sì. assurdo, Sì. assurdo. Allora, come avete Però sentito? Sì. la lettura in classe, i grandi capolavori in lingua del passato possono essere leggere, che ne so, il Porta a Milano, o I leggere belli a Roma. Domenico Tempiu a Catania, piuttosto che va benissimo. Beh, avete sentito subito Gian Antonio Stella, intanto avete capito che ha molte cose da dire sui fatti dell'attualità e della vita, e poi Gian Antonio Stella, a parte che si è appassionato adesso al discorso dei dialetti, quindi questo l'abbiamo abbastanza sviscerato, è l'uomo, il giornalista, l'inviato, l'editorialista del Corriere della Sera al quale dobbiamo come si può dire, un capolavoro d'inchiesta moderna come la casta. La casta, così i politici italiani sono diventati intoccabili, che è scritto con Sergio Rizzo, un bestseller è diventato, non so quanti milioni di copie Gian Antonio ha venduto, però poi ne ha scritti altri, prima e dopo, anche dei romanzi, e l'ultimo è pubblicato da Rizzoli, Negri, Froci, Giudei and Company, cioè tutto il peggio che si può trovare in giro, no, Gian Antonio? Tutto quello che qualcuno considera il peggio che si Appunto, può trovare in giro. volevo buttare lì provocatoriamente. E beh, leggo proprio un pezzettino della copertina, l'inondazione di odio in internet, i cori negli stadi contro i giocatori neri, il risveglio del demone antisemita, le spedizioni squadristiche contro gli omosessuali, i rimpianti di troppi politici per i metodi di Hitler, le avanzate in tutta Europa dei partiti xenofobi, le milizie in divisa paranazista, i pestaggi di disabili, le rivolte veneziane contro gli zingari, anche se sono veneziani da secoli e fanno di cognome Pavan, gli omicidi di Clochard, gli inni immondi alla purezza del sangue, eccetera, eccetera. Insomma, robe da attualità, purtroppo ancora Gian Antonio. Purtroppo sì, perché noi pensavamo, c'è cioè addirittura un grande studioso del tema che era Fredrickson, che è morto poco prima di vedere le elezioni di Barack Obama. Mi dispiace davvero per lui, perché anche se ovviamente non l'ho conosciuto, ho avuto modo di amarlo leggendolo. Fredrickson, che era un americano, si interrogava sul se si chiedeva che forse il razzismo è finito, perché lui pensava che le svolte recenti fossero state così profonde che forse, chissà, era questa mala pianta si fosse finalmente essiccata. In realtà io credo che la situazione si sia improvvisamente si è diventato improvvisamente più pesante, ed è stato determinante proprio le elezioni di Barack Obama. È sempre stato così, eh? Nel Cioè un senso passo avanti e un che passo indietro? ogni volta che c'è un grande passo avanti dell'umanità, segue quasi automaticamente una marcia indietro. Una Fai tre reazione passi di difesa. avanti e ne fai due indietro. E questo è così. Fatto sta che oggi, insomma, si leggono sui siti internet delle porcherie nei confronti di Barack Obama che sono assolutamente inaccettabili. Ma è bello e significativo soprattutto il sottotitolo del libro di Gian Antonio Stella, che è l'eterna guerra contro l'altro. Si ha sempre bisogno di un capro espiatorio, qualcuno con cui prendersi, contro il quale scatenare la propria aggressività, le proprie paure, le proprie frustrazioni. Però adesso intanto ci sono già ascoltatori e ascoltatrici in attesa di dire qual è la loro notizia della settimana, al numero verde 800 24 00 24 e... vedo che già ci sono le prime due ascoltatrici, questa volta sono due ascoltatrici che si aggiudicano il CD, doppio CD dei Dialetti d'Italia della Warner, che sono, se non sbaglio, Aurelia e Silvia. Allora, prima di sentire anche un punto di vista extraterrestre, come sempre qui a Non ci sono più le mezze stagioni, volevo sapere per ora solo il titolo delle vostre notizie. Aurelia dalla provincia di Milano, ciao Aurelia. Ciao, sono proprio contenta di parlare con voi, sono una fedelissima. Beh, senti, dimmi solo il titolo Aurelia, poi ne parliamo dopo. Ecco, no, niente, una cosa che mi ha colpito è le frane in Calabria. Benissimo, ne parliamo dopo. Invece Silvia da Pordenone. Buongiorno Silvia. A lei. Ci diamo del lei o del tu, Silvia? Decidiamo. No, del tu, perché lei dà del tu, vero? Grazie, sì, volentieri, lo ricevo molto volentieri. Silvia, la tua notizia invece? La notizia è che dico che la nostra presentatrice di Sanremo è stata una grande. Bene, Silvia, fermiamoci qui perché così ci facciamo questo collegamento extraplanetario e poi ritorniamo sui fatti terreni. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, a volte osservando la Terra, con predilezione naturalmente per la penisola italica, ci si pone anche delle domande, no? Ogni tanto, che riecheggiano tra le galassie, a volte restano così, un po' sospese come buchi neri. Per esempio, perché mai un deputato del Parlamento italiano, che sa di aver assunto droga, decide, avendo comunque l'anonimato garantito, ma dicevo decide, di sottoporsi volontariamente al test tricologico, sapete l'esame dei capelli, no? Per rivelare la presenza di cocaina? Se sa di prenderla perché, di grazia, si è sottoposto al test e risulta quindi positivo. Pensava forse che si trattasse, che so, di un test antiforfora, no? Perché può averlo pensato, tra polverine bianche magari ci si confonde un po', no? Sai com'è? Avrà forse perso la testa, certo che per perdere la testa è chiaro bisogna averne una, no? Oggi comunque sarebbe forse più opportuno, anche più trendy si può dire, perché no, il test antigelatina, no? Con tutti questi rapporti gelatinosi che imperversano, che ne dite? E dal test gelatinoso si potrebbe poi passare a un sondaggio. Per esempio, quanti uomini d'affari o che ricoprono certe cariche di responsabilità ricevono in Italia un benefit a forma di donna? Perché anche questo, bisogna dire, è sempre più trendy, no? Tra poco probabilmente sarà scritto ufficialmente in qualche forma di contratto. Come benefit, un bel paio di seni, due nati che sode e naturalmente tutto il resto annesso ovviamente. E in questo modo del resto le donne, bisogna dire, vanno a ricoprire un ruolo sociale prestigioso, no? Il ruolo, come si potrebbe dire, di facilitatrici sociali, è mica roba da poco, che poi si lamentano sempre queste donne, insomma. E in tutto questo, dicevamo ultimamente da Marte, c'è secondo gli studiosi, dicevamo, no, vi ricordate, l'avanzata inarrestabile sul pianeta Terra dei rospi, perché sono capaci di adattarsi a qualsiasi situazione, insomma un po' come accade a certi umani, molti umani si adattano a qualsiasi situazione. Tra l'altro, a pensarci, i rospi non sono mica un po' gelatinosi, no? E quindi tutto evidentemente torna. Ma a volere la propria rivincita sono anche le carpe. Avete presente quei pesci grassi e grossi, grandi mangiatori di alghe, piuttosto famelici, di bocca buona, direi? Ebbene, dopo essere stati importati anni fa dall'Asia negli Stati Uniti per ripulire le acque, hanno colto l'occasione per sfuggire a ogni controllo nelle acque statunitensi e moltiplicarsi a dismisura, tanto da diventare un'emergenza. Del resto, con l'aiuto inconsapevole degli umani, le carpe non hanno fatto altro che seguire l'esistenziale esortazione latina, ovvero carpe diem. E quindi adesso subito spazio alle prime due ascoltatrici che hanno chiamato per raccontare qual è la loro notizia. Dunque Aurelia dalla provincia di Milano. Aurelia, dicevi, parlavi dei disastri della Calabria sì, che crolla. Sì, perché un po' di tempo fa c'è stata una forte polemica perché la Calabria è quella che ha il numero, ma esageratamente più grande, di guardie forestali. Io che amo molto il Trentino so che ne ha, ma neanche da paragonare. Io chiedo a cosa sono servite, perché se non sono loro che controllano la disboscazione, le frane, con tutta questa gente che è lì, ma tanta, a cosa servono? Io chiedo quello. Questa è la tua domanda che rimane sospesa tra le galassie. Sì, no, lo sto dicendo, è una constatazione che ho fatto, perché c'è stata questa polemica un po' di tempo fa. Certo, no, ricordo. E hanno risposto perché è un terreno difficile. Ma centinaia sono. Beh, certo che se poi si disbosca, come dici tu Aurelia, e si costruisce dove non si dovrebbe costruire. Tra l'altro la Calabria è la regione più povera d'Italia e continua a essere munta dalla 'ndrangheta e anche dimenticata anche dal resto d'Italia, forse anche dal governo centrale, che sia da una parte o dall'altra. Aurelia, ti ringrazio e chiedo a Gian Antonio Stella, mio opinionista estemporaneo, oggi inviato editorialista del Corriere della Sera, ultimo libro pubblicato, Negri, Froci, Giudei e in Company. Antonio, sei da una risposta, Gian Antonio, da dare a Aurelia? Ha messo il dito su una piaga, perché quella dei forestali calabresi è una. Quello dei forestali calabresi è proprio un tema di quelli lì pesanti, che scottano. Pesanti, fastidiosi, che si tira dietro, che si trascina da anni. Vorrei ricordare che il vecchio Giacomo Mancini, il grande Giacomo Mancini, fu tra i primi anche a denunciare questa storia. Poi voglio dire, altri socialisti o altri, perfino, voglio dire, in qualche modo dello stesso partito, abbiano cavalcato esattamente come gli altri forestali calabresi, un altro discorso. Però insomma io ricordo che da molto tempo esiste questo problema. Ricordo che Calderoli un paio d'anni fa, quando venne fuori per l'ennesima volta il problema di pagarli, mancavano i soldi, il governo di centrodestra con dentro la Lega tirò fuori i soldi, però la Lega si impuntò e Calderoli disse: vado giù io a fare il commissario. E poi a distanza di qualche mese, ricordo che avevo fatto un pezzo per raccontare come aveva fatto il commissario, cioè praticamente l'aveva detto e poi se ne era infischiato bellamente. Quindi è un tema grave questo, perché ha ragione la signora, la cura dei boschi è fondamentale. Un'area a rischio come Venezia è sempre stata per esempio molto attenta a queste cose. Ricordo che se tu tagliavi un albero della Serenissima senza autorizzazione rischiavi di finire 7 anni a fare il galeotto sulle galere a remare con i ferri ai piedi. Ecco, questo nessuno pretende una cosa simile, perché forse era addirittura esagerata da parte dei veneziani, però è fuori discussione che il trattamento delle fiumare in tutto il mezzogiorno e l'incuria per le aree a rischio lo paghiamo quotidianamente con frane che vengono fuori da tutte le parti. Tra l'altro l'Italia è piena, no, di queste zone a rischio, la Calabria in modo particolare, ma poi sì, c'era un problema abbastanza cronico. Niente, qualche tempo fa, che diceva tutto, insomma, è tutto chiaro. Diciamo la verità, le sapremmo tutte le cose, solo che bisognerebbe andare a leggersi i rapporti e agire. Ora sentiamo sempre il numero verde. Intanto hanno fatto i complimenti a Aurelia, che ha appunto vinto Dialetti d'Italia, e anche Silvia da Pordenone, al numero verde 800240024. Silvia, che canteresti tu di dialettale dalle tue parti? Qui Pordenone, comunque volevo dire che il CD l'ho già acquistato, perché è stata una bella idea. O lo vuoi devolvere a qualcun altro allora? O lo vuoi sì, lo stesso? Sì, allora, sì, come generosa Silvia. Allora il prossimo ascoltatore, vedo Cesare da Roma, molto generosa Silvia. Silvia, tu volevi parlare di Sanremo invece? Sì, perché è stata veramente la Clerici una grande, perché ricordiamo c'è stata una donna che ha sempre lavorato, poi ha deciso di avere un bambino, anzi una bambina se non sbaglio. A 40 anni passati, sì. Perciò fa questa nuova esperienza, torna al lavoro e dicono: beh, vai, da dove sei venuta, no? E riparte con Sanremo da sola, cioè è un esempio per tutte noi, eccezionale, eccezionale. Grazie Silvia. C'è qualche canzone che ti è piaciuta in modo particolare finora a Sanremo? Purtroppo con il mio lavoro non riesco a sentirlo. Posso chiederti che lavoro fai, se vuoi? Abbiamo una piccola trattoria, infatti il CD lo mettiamo tutti i pomeriggi durante l'aperitivo e ci sono questi simpatici anziani che cantano con questo sottofondo del vostro CD. Quindi cioè, un po' di tutti, però fai il viaggio delle regioni d'Italia, no? Non metterai solo i friulani, zone nord-est, eccetera, giusto Silvia? Come posso parlare di una persona di 70 anni, li metterò solo i mio, che è abbastanza... Sì, però diciamo che i Mazzolini di Fiori o la Valsugana sono più piaciute, insomma, più cantate. Beh, sono un po' più vicine, vogliamo sentirlo. Anche perché non credo che giù in Sicilia mettino il Mazzolini di Fiori, non è una questione di... però è così. Insomma, uno si sente un po' più a casa propria, senza esatto. Fare il campanilismo, però è tutta bella l'Italia e quindi anche i dialetti, come diceva Gian Antonio Stella. No, anzi, però vedi, da principi li hanno già divisi nel CD dentro, sono stati saggi. Ah, sì, giusto per avere così una geografia un po' più chiara, no? Poi uno sceglie. Grazie Silvia, buon comunque. Proseguimento a lei. Grazie a te. Così, giusto per riscaldare un po' l'atmosfera, per fare un po' da contrappeso a Silvia, per augurarci anche un po' di sole prossimamente. Tra l'altro Giuliacci oggi, mio ospite fisso, che ci deve sempre un po' anticipare la settimana che viene, oggi mi ha detto sono in Puglia, non ho studiato, quindi sono assente giustificato, e quindi noi ce lo auguriamo da sole, questo sole che venga. Allora, prima di ritornare con Gian Antonio Stella e anche alle vostre telefonate, quindi immagino che il CD andrà al prossimo ascoltatore che è in linea, che è Cesare da Roma, ma lo sentiamo tra poco, il numero verde 800 24 00 24. Come al solito cerco di farvi in semiapnea un po' una sintesi di una minimissima parte delle notizie di questa settimana. Ecco qua, quindi il decreto sulle emergenze, a proposito di emergenze, no? Ne stavamo parlando in un'altra chiave anche poco fa. La Camera ha approvato ieri questo decreto emergenze che contiene norme anche sulla nuova protezione civile. Sono stati cancellati il progetto di privatizzare la protezione civile, quindi di fare protezione civile SPA, e anche lo scudo giudiziario è stato cancellato per i commissari straordinari in Campania. Ora comunque dovrà tornare al Senato questo decreto emergenze, mentre è stato rinviato quello sulla corruzione. Berlusconi proprio in questi giorni aveva annunciato con questa vicenda protezione civile, Bertolaso eccetera, di voler dare un giro di vite, no, sulla corruzione, però ancora bisogna mettersi d'accordo con quali forme, e oggi dice non ho paura delle inchieste, andremo avanti su questa cosa. Poi l'allarme però dei magistrati contabili della Corte dei Conti, che hanno detto in questi giorni la corruzione in Italia cresce, c'è un'escalation incredibile, sprechi nelle opere incompiute, la corruzione l'hanno definita un tumore del nostro paese. E poi abbiamo detto appunto la vicenda Bertolaso e le inchieste sugli appalti relativi al G8 e ai grandi eventi, con Bertolaso che ha detto mi sento alluvionato. E poi la Calabria che crolla, come ricordava la nostra ascoltatrice, Maierato, che è, insomma, è ancora un po' ad alto rischio la zona. Il sottosegretario all'economia e coordinatore del PDL in Campania, Cosentino, che aveva dato le dimissioni nei giorni scorsi anche per il suo caso, le indagini, l'inchiesta che lo riguardava, invece ha incontrato Berlusconi ieri, ha ritirato le sue dimissioni. Poi questo test sui parlamentari anticocaina, sono 232, uno anonimo, tutti anonimi, risultato positivo. Che cavolo si è sottoposto? Vabbè, e non si può sapere comunque, appunto, perché c'è l'anonimato. Poi la Procura di Pescara che ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e di altre 31 persone. Il Dalai Lama che è arrivato alla Casa Bianca a trovare Obama con grande disappunto della Cina, che aveva detto così violate gli impegni, ha intimato la Cina agli Stati Uniti. Il Nord in Italia che chiude per lo smog, stop al traffico in un centinaio di comuni il prossimo 28 febbraio, quindi domenica prossima una buona parte del nord sarà chiusa al traffico. Può servire o non può servire, anche su questo potete naturalmente esprimervi. Ritornando a Obama, che ha sbloccato i finanziamenti, non ce lo aspettavamo molto, i finanziamenti dopo 30 anni per due nuove centrali nucleari negli Stati Uniti. Poi un successo sempre che riguarda gli Stati Uniti. È stato arrestato il numero due del terrorismo internazionale legato ad Al-Qaeda, Abdul Ghani Baradar. E poi questa tragedia in Marocco, scusatemi, il freddo ancora si sente a parte il sole mio, in Marocco un minareto che è crollato, sono 40 i morti, molti feriti. Ritornando invece in Italia, questa lite di periferia a Milano fra cittadini extracomunitari in via Padova con il ragazzo che è stato ucciso in questi giorni, e poi già sono stati fermati due o tre persone. Questo caso che ha fatto molto discutere in Gran Bretagna, di un noto conduttore della BBC che ha ammesso di aver aiutato a morire anni fa il suo partner malato terminale di AIDS, però ha detto neanche sotto tortura rivelerò mai come si chiama. Allora anche qui bisogna chiedersi, l'ha detto per riaprire un po' il dibattito molto delicato sull'eutanasia, sulla morte, sulla dolce morte eccetera, o perché? Ma. E poi un caso molto particolare in Italia invece, di questi tre donatori detti samaritani, donatori di organi, che hanno deciso di donare organi così a qualche sconosciuto per ridargli nuova speranza, nuova vita. Poi il disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma poi dovrà passare anche in Parlamento, che vieta le protesi mammarie alle minorenni, alle donne insomma non maggiorenni, che sappiamo che l'80% lo si fa per estetica in Italia, questi interventi al seno. Poi è morto l'imprenditore Caltagirone, è morto Emilio Lavazza, il papà del caffè italiano, e così lo stesso lutto per Gianfabio Bosco, no? Il Gian di Ricche Gian, della coppia Ricche Gian, le Olimpiadi di Vancouver, Sanremo, abbiamo sentito ascolti da record, e poi questa cosa di Tiger Woods, il campione mondiale del golf, che era diciamo stato trascinato in questa bufera, in questo scandalo, per tutte le sue avventure extraconiugali, e stava andando a monte il suo matrimonio e anche la sua carriera con gli sponsor, che si sono subito ritirati. Adesso manca un minuto alla prossima pausa e tra poco sentiremo Cesare e Elena, Carlo, ma in un minuto Gian Antonio Stella, che cosa ne pensi di questa cosa di Tiger Woods? In Italia non succedono di queste cose, che uno poi vada in TV e dica mi pento, sono stato un irresponsabile, ho fatto del male a mia moglie, a voi, ho deluso tutti, cambierò vita. Com'è questo? Ma, ovviamente gli affari personali sono personali ed è giusto che sia così. Però lì sono protestanti, che forse per questo si devono pentire in pubblico su queste cose che riguardano. Però devo dire che da altri punti di vista invidio l'America, perché quando uno è un personaggio pubblico si assume delle responsabilità del personaggio pubblico. Vero. In questo senso la mia invidia per l'America è totale. E con noi uno pretende di avere il pro del personaggio pubblico, cioè amatemi perché io sono così, sono colà, sono così, sono colà, sono colà, sono così. Ma qualsiasi cosa io commetta. Poi appena viene fuori il peggio, allora no, allora quella è vita privata. La privacy. Beh, troppo comodo, troppo comodo. O uno è tutto pubblico o è tutto privato. Fanno campagne elettorali mettendo la propria faccia e non il manifesto del partito. Presuppone che tu spendi te stesso perché garantisci che tu che vale la pena di votare te come persona. A quel punto, se la tua persona, da alcuni punti di vista, fa schifo, è giusto che la gente lo sappia. Ecco, così per continuare, insomma, con i dialetti, visto che cioè di mezzo Sanremo abbiamo parlato di questo dibattito sui dialetti e del fatto che ho regalato, insomma, insieme abbiamo regalato Radio 24, insieme a Warner, questi due CD dialetti d'Italia. Il prossimo va, credo, a Cesare, che adesso sentiamo, e poi volevo ricordarvi che ovviamente sempre in collegamento c'è Gian Antonio Stella, inviato del Corriere della Sera, editorialista del Corriere della Sera. Ultimo libro è Negri, Froci, Giudei and Company, pubblicato da Rizzoli. C'è Cesare? Buongiorno. Buongiorno Cesare. E senta, io ho sentito la sua il suo racconto del test psicologico alla Camera, che mi ha molto incuriosito. E volevo questa approfittare. Era la Marziana, sì, che parlava da Marte. Sì, sì. La Marziana. Sì. E volevo approfittare della presenza del suo ospite per proporre una piccolissima considerazione, fare una domanda. E qualche giorno fa alla trasmissione di Cruciani, io ascolto la radio girando in macchina, ho ascoltato il sottosegretario Giovanardi che parlava di questo un solo deputato su 230 risulta sì, positivo. Su 232, sì. Sì, per quel che mi consta, i deputati e i senatori sono un 6-700, una cosa del genere. Eh beh, certo, ce ne sono ancora molti di più da testare. Sì, se noi si fosse a una presentazione scientifica, chi dice 1 su 230 su una popolazione, su quando in realtà le persone a testare sono 7-800, dovrebbe dire 230 su 800 hanno fatto il test, gli altri non l'hanno voluto fare. Ed è una cosa leggermente diversa. Quella dell'onorevole Giovanardi, da un punto di vista scientifico, si chiama una piccola truffetta. Ma questo non so, se hanno preso un numero a campione, diciamo, facciamolo su, non lo so, effettivamente è un test volontario, quindi probabilmente o gli altri si sono sottratti o l'hanno fatto solo su una parte. Sì, ma non è rappresentativo, quindi inutile che vengano in televisione, alla radio, in televisione a dire solo uno su 230 deputati e uno su 230 che volevano fare il test. Come lei giustamente dice, se uno è positivo, sa di esserlo e fa il test, perché lo fa? Perché lo fa, Cesare? Dimmelo tu. Forse lo fa per dare quell'uno che rende credibile il test. Può essere un'ipotesi anche questa, insomma. Sì. Se la riderà. Cesare, allora posso farti inviare Dialetti d'Italia? Ah, grazie, molto volentieri. Tu cosa canteresti, per esempio, in dialetto? Roma non fa la stupida stasera? No. Essendo nata a Modena, un granché di canzoni in dialetto non le abbiamo. Non siamo né napoletani né veneti. Però abiti a Roma. No. Abito a Roma, sì, le canzoni ce ne sono tante più, è molto bello. Dei bei stornelli, ce ne sono. Cesare, comunque ti ringrazio moltissimo. Grazie Cesare, quindi riceverai anche tu, visto che Silvia ha rinunciato generosamente, l'aveva già a Dialetti d'Italia. Grazie Cesare, vorrei sentire sempre al numero verde 800 24 00 24 Carlo da Arezzo, quindi ci spostiamo in Toscana. Carlo. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Carlo. Che Dio ti benedica. È piacevole ascoltarti. Senti, due domande per una questione che è sulla stampa tutti i giorni. Perché escono dalla procura notizie, intercettazioni, altre cose, insomma, che riguardano i cittadini indagati? Non c'è più il segreto istruttorio. Poi, il garante della privacy, altra domanda, ma sarò rapidissima. Il garante della privacy cosa fa? E soprattutto, perché si può ricoprire di sterco, eufemismo, è questo. Un cittadino, prima che sia condannato in via definitiva, insomma, se c'è la presunzione di innocenza da quando uno è veramente provato che è colpevole, perché si può commettere tutti questi danni che si fanno così agli italiani? E quando poi questi danni sono realmente provati, perché c'è innocenza, chi paga? Vorrei approfittare della tua opinione e anche quella del grande Gian Antonio Stella. Grazie. Carlo, ringrazio moltissimo te. Io, diciamo, anche per risparmiare tempo, perché probabilmente è più interessante sentire cosa pensa Gian Antonio Stella, poi se volete più in là, se c'è tempo, magari dico anche la mia. Gian Antonio, sia su quanto diceva Carlo e se vuoi anche sui test anticocaina di Cesare, come è tua scelta? Dire una cosa, sì. Che mi permetto di suggerire all'ascoltatore Emiliano un long playing straordinario, credo che si trovi anche in CD, anzi si troverà senz'altro, di Pierangelo Bertoli. Io non sono Emiliano, quindi sbaglierò sicuramente la pronuncia, però è se ti viene in mente che esperto di musica anche Stella, ed è tutto in dialetto modenese, in dialetto emiliano, ed è bellissimo. Capito Cesare? Esistono anche delle meravigliose canzoni in dialetto di Pierangelo Bertoli. Bene. Per quanto riguarda il test psicologico, non abbia ragione lui. E cioè che è poco rappresentativo, dici. Ma no, ma non ha senso, voglio dire. L'hanno fatto chiaramente quelli che ritenevano di non avere niente da nascondere. E uno pensava che invece l'effetto non si... O che si confondesse con la forfora, forse, si non so. Invece su Carlo, quanto diceva Carlo sul segreto istruttorio, sulla privacy? No, io... Insomma, io non credo di essere un giustizialista, però sinceramente io preferisco che i carabinieri possano continuare a intercettare quelli su cui c'è su cui erano dei sospetti. Per me una stretta sulle intercettazioni non ha senso. Che poi, no, diceva, però poi me, comunicarlo alla stampa. Secondo me è giusto che se uno ha delle motivazioni serie possa intercettare anche un deputato senza chiedere permesso alla Camera. No, ma non tanto sulle intercettazioni, Gian Antonio, diceva sulla però il fatto di parlare ecco. delle intercettazioni, sulla pubblicazione delle intercettazioni, credo che ci sia un senso se c'è una ipotesi di reato o se comunque lascia capire dei rapporti che sono inaccettabili. Faccio per dire, io auguro a Bertolaso di essere assolutamente, totalmente pulito, innocente e di dimostrarlo, e quindi questa è la prima cosa che va detta. Se però lui davvero avesse accettato delle gentili signorine regalategli dalle persone a cui lui dava gli appalti, questo non mi va bene. Non mi va bene perché lui è libero di avere la vita sessuale che gli pare, questo è chiaro. Ma che però non che sia uno scambio, dice. Non mi va più bene. E lo stesso vale per altri casi del genere. La diffusione di alcune cose che invece sono del tutto gratuite, ricordo ad esempio messaggini fra Anna Falchi e Ricucci, quella lì dovrebbe secondo me effettivamente insomma non me la sentirei di difendere la libertà di stampa se arrivasse un provvedimento solo su quelle robe là, ma ripeto, guai se venisse messo un qualche limite alla diffusione di telefonate come quelle che stanno uscendo, perché su quelle effettivamente i dubbi ci sono e la gente ha diritto di conoscerli. Oh, intanto c'è Giorgio De Luca ai telefoni, la Diacali, che sta facendo tantissime telefonate, tante donne anche. C'è, per esempio, c'è Marisa da Vigevano, ma prima ancora Elena da Savona. Così continuiamo a spostarci di regione in regione. Elena. Buongiorno. Buongiorno Elena, che tempo fa lì in Liguria? Mi sembra che non sia tanto. Oggi finalmente splende il sole. Ah sì, parlavano di neve, cose. Vabbè, speriamo. No, è fantastico. Oggi, come del resto la Liguria è fantastica. È fantastica, certo. Sì, Elena. Anche se io vengo dalla Sardegna. E qual è la tua notizia della settimana? Sono felice e contenta per Antonella Clerici di come sta conducendo il festival, che finalmente dopo tanti anni lo posso vedere perché avevo un lavoro che non me lo permetteva. E diciamo che sono anche soddisfatta delle canzoni che finalmente sanno di qualcosa. Elena, quindi facevi un lavoro serale perché andando in onda esatto, la sera non potevi vedere. Gestivo un ristorante fino anche a un anno fa. Ma tu da queste donne che gestiscono ristoranti, trattorie? Sì. Ti sei ritirata a vita privata adesso, Elena, o fai no, altro? No, ho un ortofrutta alimentare. Ma sempre nell'attività, insomma, sì, sempre nel campo alimentare. Sì. Elena, certo, quindi certo. È Sanremo, volevi parlare bene di Antonella Clerici e anche dell'edizione di quest'anno. La trovo fantastica, rilassante, dolce, come del resto penso che sei tu, dalla voce. Ma, sì. Spero di sì, credo di sì. Tutta Radio 24 che riesco a ascoltare da un anno, praticamente adesso conosco tutti i programmi. Benissimo, a memoria, quindi adesso ti faccio tutto, ti chiedo, ti interrogo praticamente, Elena, sugli orari, i programmi, i titoli, eccetera. Sì. No, vabbè, sì. Il test. Il test molto a proposito il dottor Cruciani e la dottoressa Nicoletta Carbone. Benissimo. È compresa, naturalmente. Vabbè, insomma. Elena. Comunque, si dice di bene, di male, di questo festival, eccetera, di tutti gli anni, naturalmente. Io trovo che quest'anno sia veramente, veramente azzeccato. Grazie Elena. Io adesso, prima della prossima pausa per aggiornare chi sta viaggiando, vorrei anche sentire Francesca da Varese, poi c'è Marisa da Vigevano e poi chiederò anche a Gian Antonio Stella, dopo la viabilità, se vuol parlare di Sanremo o di qualche altra notizia della settimana. Abbiamo toccate veramente molte finora. Francesca. Buongiorno signora. Francesca, sono una grande ascoltatrice di Radio 24, comincio la mattina presto fino alla sera tardi. Accidenti, cos'è? L'iPod? Cos'è, tipo? No, beh, chiaro, nelle pause della giornata che me lo consentono. Tra macchina, casa, eccetera. Ufficio. Okay. Poi vado a riascoltarmi, eccetera, i passaggi e così via. Ma vuoi il premio fedeltà, Francesca? Beh, potrei dire qualche cosa, però è meglio evitare. No. Comunque, ascolti, sì. Io volevo fare una richiesta particolare per lei, perché la trovo veramente equilibrata, piacevolissima nella voce, tento. Molto educata, molto cordiale, perché anche magari per un periodo di tempo limitato, non lo so, magari per una vacanza del conduttore principale, lei andasse a condurre la Zanzara. Oh, Francesco, mi lusinghi, ti sono veramente grata, visto che è il nostro programma di punta, ma non voglio togliere ovviamente al mio collega, tu dici, in un periodo di vacanza, insomma, mi piacerebbe ritornare a un programma quotidiano come ho fatto per tanti anni, vedremo un po', senza rubare spazio e programmi a nessuno, Francesca. Devo dirti, veramente, ti ringrazio, non mi aspettavo questa proposta, questa richiesta. Francesca. Ma è perché è molto molto equilibrata, è molto educata e molto carina. Tento di essere equilibrata, poi sai, insomma, è sempre un obiettivo, quello, non è detto che ci si riesca. Francesca, posso chiederti cosa fai nella vita? Io lavoro in un'azienda nel settore automotive e mi occupo di commerciale estero, mi occupo di vendite, della gestione vendite. E c'è una notizia questa settimana che ti ha colpita in modo particolare? Che mi ha colpito particolarmente quella del giornalista inglese, mm-hmm, che ripropone una volta di più un tema molto, molto spinoso, tra l'altro è appena passato l'anno della morte di Eluana Englaro, sembrava la priorità numero uno l'anno scorso quando per la legge sul testamento biologico si stendevano sull'ambulanza per evitare che partisse verso Udine, no? Quelli che chiamavano assassini nell'aula del Parlamento il papà di Eluana e quelli che avevano quella posizione e poi alla fine noi. Non se n'è fatto più niente, quindi questa cosa del giornalista ha richiamato un po' all'attenzione di tutti una vicenda che chiaramente ha colpito molto negli spiriti, ha diviso il paese ovviamente, e però è rimasta irrisolta. Francesca, ti ringrazio moltissimo, grazie ancora. E adesso, grazie a te. Sempre in collegamento Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, inutile che lo presenti, ormai lo conoscono tutti con questo bestseller soprattutto della casta, Così i politici italiani sono diventati intoccabili, che ha scritto con Rizzo, poi Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, però l'ultimo è per Rizzoli, Negri, Froci, Giudei and Company, l'eterna guerra contro l'altro. A parte che volevo chiederti, gli argomenti sono sempre tanti, Gian Antonio, tu mangi gli yogurt scaduti da poco per caso? Ma io in genere, devo essere sincero, sullo yogurt sono esterofilo, mi mangio solo quello greco. Ah sì, buono, particolarmente ricco. Chiedo scusa. Sei poco patriottico, sì. Cosa. Sì. Sei poco patriottico. Il greco l'adoro, il resto dello yogurt non mi piace, sono sincero. No. Te lo chiedevo per danneggiare l'industria italiana, però è così. Ecco. Te lo volevo chiedere perché il ministro Brunetta, sai che in questi giorni ha detto, parlando della digitalizzazione, sburocratizzazione dell'amministrazione pubblica, siccome è stata digitalizzata, diceva a proposito di sprechi, per esempio, evitiamo sprechi in questo modo, e io, come mi ha insegnato la mamma, mangio anche gli yogurt scaduti da poco, quindi volevo chiederti se anche sì, tu... Sì, vabbè, voglio dire, questo è un altro... Sì, è ovvio, certo, anch'io, questo tanto... La scadenza viene messa a fini precauzionali, spesso se appena succede si mangiano benissimo. Contro il latte che sa di acido, un conto se lo yogurt è un po' più acido. Già di per no, sua c'è una cosa che invece volevo dire, certo, a proposito delle notizie della settimana, che mi ha colpito, anche a me ha colpito molto questa cosa del giornalista inglese. Sì. Io ho avuto modo anni fa di conoscere, conosco anche il papà Englaro, ho avuto modo di conoscere una signora che aveva ucciso sua madre ed era devastata dal senso di colpa, nonostante la madre gliel'avesse chiesto. Era una situazione difficilissima. Chiunque abbia visto quel film straordinario che è Maladentro, insomma, sa che questi sono temi molto delicati, e a maggior ragione mi ha colpito molto, anche a me, come la signora che telefonava, il fatto che l'ipocrisia di chi un anno fa strillava in modo assolutamente indecoroso di non staccare le macchine a papà Englaro, dopodiché è passata la cosa, una volta che non si poteva più cavalcare elettoralmente papà Englaro, non gliene frega assolutamente nulla, insomma molto poco, ecco, diciamo che molto meno interessato all'episodio dopo. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, questo in senso invece molto positivo, è stata l'intervista di Roberto Maroni a Gian Giacomo Schiavi, in cui dopo la rivolta, dopo la gazzarra brutta degli immigrati della zona di Via Padova, a Milano, Milano sì. Invece che dire un qualcosa di spropositato e sbagliato come fece dopo Rosarno, c'è scappato ha anche detto il morto. Delle parole sagge, e cioè che al di là del fatto che gli immigrati avevano sbagliato, perché non c'è dubbio che avessero sbagliato, la soluzione non può essere soltanto repressiva, ma ci deve essere intelligenza nella gestione di queste cose, e credo che sia assolutamente giusto anche il discorso finalmente fatto di provare a smistare il più possibile le persone in modo che non si concentrino tutte nello stesso punto. Che faghetto, è dice, una cosa assolutamente saggia. Gli immigrati italiani che si concentravano nelle Little Italy avevano dei problemi. Le Little Italy non erano un posto pittoresco, erano posti pieni di violenza. Il reportage di Adolfo Rossi, La vita di New York, lo ribadiscono in via definitiva. Molto meglio, si sono trovati gli italiani quando si sparpagliavano nel territorio, ed è bene che anche adesso gli immigrati vengano sparpagliati nel territorio. Per cui vanno bene anche le politiche sulle quote, vanno bene, non sono sbagliate in linea di principio le quote, però per applicare le quote è assolutamente indispensabile una svolta culturale. In questo senso. E cioè, tu puoi applicare le quote nella scuola, nei condomini, nelle strade, nella distribuzione delle licenze commerciali, eccetera, eccetera, a una sola condizione: che spazi via dalla società italiana il razzismo. Cioè non puoi dire di no a un cinese dicendo tu no muso giallo, perché se no la politica delle quote non la puoi applicare. Gianantonio... Da questo punto di vista spero che dentro il suo partito le parole di Maroni vengano ascoltate, perché in realtà purtroppo temo che Maroni possa essere ascoltato in questa sua saggezza da molte parti meno che nel suo partito. Gianantonio, tra l'altro è di attualità estrema questa cosa, perché proprio in questa settimana è stato presentato alla Camera una ricerca commissionata dalle regioni dalla quale risulta che il 45%, quindi quasi la metà dei giovani, è chiuso agli stranieri e xenofobo. Però adesso devo chiedere umilmente scusa a Marisa da Vigevano, ad Alberto da Padova, a tutti gli altri ascoltatori. Non ce la facciamo, perché adesso è anche il momento di Valeria della Valle, alla quale chiedo sempre in 63 secondi, Maria della Valle, linguista della Sapienza di Roma, la parola di questa settimana. Secondo me è, da una parte e dall'altra, il decreto che ancora deve passare, le inchieste, cioè, corruzione. Che ci dici? Benissimo, pochi secondi per dire che la parola corruzione è ovviamente molto antica e ha moltissimi significati, ma la corruzione per antonomasia, il significato che scavalca in fondo tutti gli altri, oggi quante volte l'avete nominata, è proprio quella che indica il reato al quale ci si riferisce in questo periodo. E in ogni caso la parola corruzione è una parola, insomma, che fa pensare a un senso di disfacimento, di decomposizione, ma diciamo che la nostra lingua è piena di risorse e si trovano sempre nuovi modi molto evocativi, anche in fondo fantasiosi, per alludere a certi fenomeni di malcostume. Proprio la parola casta usata da Stella ne è un esempio. E allora ecco che da quello che ha scritto il giudice, ma anche dalle parole degli intercettati, c'è un nuovo modo per indicare la corruzione. Questo nuovo modo, linguisticamente parlando, è quello di ricorrere a liquido gelatinoso, sistema gelatinoso o addirittura gelatina. E allora, per concludere, ecco che cosa questo nuovo uso, se si imporrà, cioè questo uso figurato della parola gelatina, che per ora non era registrato dai vocabolari, se davvero prenderà a piedi, darà modo e ci obbligherà, noi che scriviamo i vocabolari, ad aggiungere un nuovo valore. E tocca lavorare ancora la Valeria della Valle, grazie, sì. Ciao. Ciao Valeria, ciao cara. Adesso devo proprio chiudere, abbiamo 7 secondi, Gianantonio Stella, e ricordo il tuo libro Negri, Froci, Giudei and Company. Direi che il peggio del peggio sarebbe essere, a proposito di discriminazione, donna, negra, ebrea e lesbica, peggio di così. Gianantonio, una conclusione di 4 secondi. Beh, diciamo che già essere donna in un paese come il nostro non è poco. Sì. No? Ci vuole del coraggio. Che dà troppo poco spazio alle donne. Da questo punto di vista, io non ho visto Sanremo, ma se è andata bene ad Antonella Clerici, esulto. Possiamo essere contenti. Grazie Gian Antonio Stella, ti abbraccio. E da Roberta Giordano, appuntamento sabato prossimo alle 14. Gli ascoltatori che non sono passati, vi chiedo, diamoci appuntamento lì. Intanto, sereni orizzonti a tutti.